Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È iniziata la seconda parte di Eclettica, dopo che la prima parte si era chiusa con Future Islands e Beach Home, preceduti da Man Without Pants con And The Girls Go. Questa seconda parte si è aperta con Marta sui tubi, l'unica cosa, il titolo del pezzo, ma non c'è un nuovo album, come già vi avevo detto. C'è solo un DVD. Per il nuovo album bisognerà attendere l'autunno. In questo DVD c'è l'inedito che vi state ascoltando da qualche settimana in Eclettica, che vi ritrovate alla fine di ogni settimana appunto all'interno delle playlist, o pubblicate su myspace.com/eclettica, oppure direttamente nella vostra casella di posta se iscritti alla lista nera. Per iscriversi basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com. E ora si prosegue con un quintetto che proviene dalla città inglese di Birmingham. Loro si chiamano Shady Bird e ci fanno ascoltare un brano che è emblematico del loro approccio completamente acustico, Long Term Solution to the Seagull Problem. Involved. miss you the most. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Wake up. Durante la guerra a Roma vigeva l'oscuramento. Quando calava la sera i vigili dell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea, inforcavano le loro bianchi con i fanalini oscurati e si mettevano a pedalare per il quartiere urlando «Luce! Luce!» al primo chiarore che filtrava da una finestra. C'era il divieto di far vedere la luce, ma non quello di suonare i giardinetti. Certi che gli inglesi fossero troppo snob per mettersi a volare dopo l'ora del tè nel cielo di Roma, io, Bruno Piccarozzi e Gigi Martini swingavamo con le nostre chitarre in Viale Mazzini, seduti al buio su una panchina davanti alla latteria di Memmo, mentre Donatella Biancone gorgheggiava i più famosi refrain americani. Una sera passò da lì per caso un giovanotto bruno, reduce di guerra. Si sedette su una panchina di fronte e si mise ad ascoltare. All'improvviso, nonostante l'oscuramento, gli si accese come una lampadina da 100 candele. La grande idea era sbocciata. La sua donna era una soubrette, appiedata dalla lunga guerra e bisognosa di rilancio, se non altro per riacquistare quel peso forma causa inerzia abbondantemente superato. Noi dovevamo essere gli artefici della miracolosa rentrée, e questa era l'idea. Una grande rivista, debutto niente meno che al Quattro Fontane, numeri grandiosi, attrazioni di fama nazionale per fare da contorno alla prosperosa soubrette, e il piatto forte dello spettacolo dovevamo essere noi, il poker d'assi, come io, in un lampo di autentico genio, avevo chiamato il quartetto. Questo era ancora Billie Holiday, che palle, di Carlo Loffredo. Storm of secrets. Fino ad ora Eclettica in questa sua seconda parte è stato un lungo giro per l'Europa, a partire dall'Italia dei già annunciati Marta sui tubi, per proseguire con l'Inghilterra degli altrettanto già annunciati Shady Bird, per poi arrivare alla Svezia, a Stoccolma, degli Shout Out Louds ascoltati con Impossible, e poi al Belgio, The Girls in Hawaii. This Firm Will End Up in Fire è il titolo del brano che si è appena chiuso. E Giulio Capperdoni che vi accompagna verso la chiusura del secondo volume della settimana, ritornando in Italia, per la precisione a Genova. Fatto strano è che negli scorsi giorni mi sono arrivate più buste da Genova. Tutte queste buste avevano un contenuto più o meno simile, sempre musica elettronica, però alcune sono state scartate. Il contenuto di alcune di queste buste, dopo attento ascolto, è stato scartato, mentre il disco in questione entra nelle playlist di Eclettica. Un disco che verrà pubblicato il 21 di aprile, quindi ancora pochi giorni, intitolato Flared Up Remixes, a nome Port Royal. Io vi faccio ascoltare quella che è la traccia numero 3, Spetsnaz. It's too bad she won't live. But then again, who does? Eclettica, ultima stagione, settimana numero 24, volume numero 2, indice, Miles Benjamin Anthony Robinson, Grand Archives, No Age, a rifare Björk, Man Without Pants, Future Islands, Marta sui tubi, Shady Bird, Shout Out Louds, Girls in Hawaii, The M's. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.